Questa è una seconda prova per vedere se il podcast funziona e aggiungere altre funzionalità. Che voce da culo che ho. Ciao, ciao, ciao.